Allora Giuditta cadde con la faccia a terra e, spargendo cenere sul suo capo, mise allo scoperto il sacco che aveva indossato. Era l'ora in cui nella casa di Dio a Gerusalemme veniva offerto il sacrificio vespertino e Giuditta, ad alta voce, gridò al Signore. Signore, Dio del padre mio Simeone, cui desti in mano una spada per far vendetta degli stranieri che avevano sciolto la cintura di una vergine per contaminarla, ne avevano denudato il fianco per disonorarla e ne avevano violato il grembo per infliggerle ignominia, perché tu hai detto non sarà così, ed essi lo fecero. Per questo consegnasti i loro capi alla morte e al sangue, quel giaciglio macchiato del loro inganno, ripagato con inganno. Hai percosso gli schiavi con i capi e i capi sui loro troni. Hai consegnato le loro donne alla rapina, le loro figlie alla deportazione e tutte le loro spoglie alla distribuzione tra i figli da te prediletti, poiché essi, bruciando di zelo per te, detestarono la profanazione del loro sangue e ti invocarono chiamandoti in aiuto. Dio, Dio mio, ascolta anche me, che sono vedova. Tu infatti hai operato tali fatti come i precedenti e seguenti. Tu hai disposto le cose presenti e le future, e ciò che hai predisposto si è avverato. Le cose che hai voluto si fecero innanzi e dissero: eccoci qui, poiché tutte le tue vie sono preparate e i tuoi giudizi sono determinati in precedenza. Ecco, infatti, gli Assiri si sono gonfiati nella loro potenza, vanno orgogliosi dei loro cavalli e cavalieri, si vantano del valore dei loro fanti, pongono la loro fiducia negli scudi, nelle frecce e negli archi, e non sanno che tu sei il Signore che debelli le guerre. Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza. Infrangi il loro potere con il tuo furore, già che hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare il tabernacolo in cui riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro il corno del tuo altare. Mira la loro alterigia. Fa carire la tua ira sulle loro teste. Metti nella mia mano di vedova la forza di compiere ciò che ho progettato. Con l'inganno delle mie labbra, colpisci il servo insieme al padrone e il padrone insieme al suo ministro. Abbatti la loro tracotanza per mano di una donna. La tua forza, infatti, non sta nel numero, né la tua signoria si appoggia sui violenti. Tu, invece, sei il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il difensore dei deboli, il protettore dei derelitti, il salvatore dei disperati. Sì, sì, o Dio del Padre mio, o Dio di Israele, tua eredità, Signore del cielo e della terra, Creatore delle acque, Re di ogni tua creatura, ascolta la mia preghiera. Fa che la mia lusinghiera parola diventi una ferita e un colpo mortale per coloro che hanno progettato aspri disegni contro la tua alleanza, il tuo tempio consacrato, contro il monte Sion e la casa in cui dimorano i tuoi figli. Fa che tutto il tuo popolo ed ogni tribù conosca che tu sei Dio, il Dio di ogni potenza e forza, e non c'è altri all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele.